c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Va bene d'amore.